Il dramma dell'Algeria trova la sua origine più recente nel maggio del 58. I francesi insorsero contro il governo Flemelin. Si invocò al potere il generale De Gaulle, che chiese carta bianca. Il 5 luglio 1962 viene proclamata la Repubblica Democratica e Popolare d'Algeria, a seguito della schiacciante vittoria al referendum sull'indipendenza voluto dal presidente della Repubblica francese Charles de Gaulle. Si concludeva les événements d'Algérie. Dietro quel risultato ci sono però 8 anni di violenze, almeno 1 milione di morti, bombe in Francia e in Algeria, campi di concentramento, torture e omicidi politici. Questo è il devastante bilancio dell'ultimo capitolo della storia coloniale francese. In occasione dei 60 anni da quel 5 luglio 1962, Walloon, la mezz'ora di storia di e con Radio Città Fujiko, vi propone uno speciale di 4 puntate sulle storie e le memorie della guerra d'Algeria. Nella guerra d'Algeria un elemento che va tenuto in considerazione è quello del comportamento della comunità europea che dall'altro lato del Mediterraneo era insediata, in alcuni casi addirittura dal XIX secolo. Erano all'incirca 10 milioni di persone, con delle punte ovviamente nelle grandi città, Algeri, ma soprattutto Orano. Era una comunità composita, larga maggioranza erano francesi, ma c'erano anche tanti immigrati da altri paesi europei. Era una comunità, questa, che nel tempo non si era mai contaminata del tutto con la popolazione coloniale, anzi, in molti casi questi cittadini d'Algeria mantenevano l'idea di essere i rappresentanti di un lembo d'Europa in terra d'Africa, e molti di loro pensavano anche che una società nettamente divisa fra cittadini di pieni diritti, bianchi ed altri, rappresentati dalla popolazione coloniale, potesse anche andar bene. Era una comunità che si sentiva profondamente legata alla cosiddetta madre patria ed era una comunità che aveva una forte influenza, tanto da aver spinto l'opinione pubblica francese all'indomani dello scoppio della guerra al riportare al potere Charles de Gaulle, nell'idea che lui, vecchio eroe della Seconda Guerra Mondiale, non avrebbe abbandonato i francesi d'Algeria. Come invece poi, a loro giudizio, avevano fatto i rappresentanti della Quarta Repubblica. Ma quando lui aveva iniziato a parlare di trattative, questa comunità francese si era sentita smarrita, abbandonata dal suo eroe come dai suoi concittadini che, inizialmente favorevoli a larga maggioranza al mantenimento dell'Algeria francese, avevano poi finito per chiedere a gran voce la pace. Capitalizzare il malcontento di questi francesi d'Algeria, che presto sarebbero stati conosciuti come pieds noirs, nel momento in cui si sarebbero apprestati a tornare, fra virgolette, in Francia, dopo l'indipendenza, fu l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, un'organizzazione clandestina che si incaricava di raccogliere il malcontento della popolazione di Algeri, innanzitutto, che era scesa in piazza in maniera molto forte nel 1959 con la settimana delle barricate, e poi di raccogliere anche il malcontento degli ufficiali, dei soldati che si sentivano abbandonati dalle alte gerarchie dello Stato francese. Batticuore in Algeria per francesi e musulmani. L'OAS non intende deporre le armi. Ha sostituito il plastico con il mitra e spara contro le truppe francesi del governo metropolitano. Nella casba gli algerini cercano di tenersi fuori dalla mischia e attendono fiduciosi gli eventi. La battaglia infuria invece a Bab el-Oued, la roccaforte dei terroristi. Le forze dell'ordine rastrellano il quartiere strada per strada, casa per casa. Asserragliati nei vecchi palazzi, i francesi di Salah sparano dalle finestre e dalle terrazze contro i francesi di De Gaulle, e nella lotta fratricida cadono ogni giorno decine di uomini. Accolse l'OAS nelle sue fila quei generali che nel 1961 tentarono il colpo di Stato contro De Gaulle e furono poi costretti alla clandestinità. L'OAS, quando venne concepita dai suoi fondatori, fu pensata come una risposta della comunità europea all'azione del Fronte di Liberazione Nazionale algerino, ma fu anche qualcosa di più. René Monclar, appoggiato alla testata del letto, era basso e corpulento, Come Rodin, era un ufficiale di carriera dell'esercito, ma, a differenza di Rodin, non aveva comandato una compagnia di combattimento. Aveva trascorso buona parte della sua vita nei servizi amministrativi e durante gli ultimi 10 anni aveva lavorato nell'ufficio contabilità della Legione Straniera. Era il tesoriere dell'OAS dalla primavera del 1963. André Casson era l'unico civile, piccolo di statura, accurato e preciso, vestiva ancora come un direttore di banca. Fungeva da coordinatore delle operazioni clandestine dell'OAS CNR in territorio francese. Tutti e due, come Rodin, erano fautori della linea d'azione più dura e violenta e passavano per persone spietate, perfino all'interno dell'OAS. Però agivano così per ragioni del tutto diverse. Moncler aveva avuto un figlio che 3 anni prima, 19enne, era partito per il servizio militare in Algeria. Il maggiore Moncler non aveva mai più rivisto il figlio. Il cadavere era stato seppellito nel Bled da una pattuglia della Legione, che aveva occupato il villaggio dove il giovane era stato tenuto prigioniero dai guerriglieri. Per quanto riguardava André Casson, le ragioni erano più complesse. Nato in Algeria, aveva dedicato tutta la sua vita al lavoro, alla casa e alla famiglia. La banca dove era impiegato aveva la sede centrale a Parigi e anche con la perdita dell'Algeria lui non avrebbe corso il rischio di rimanere senza lavoro. Ma quando, nel 1960, i coloni francesi si erano rivoltati, si era unito a loro ed era diventato uno dei massimi esponenti del movimento Costantina, la sua città. Era riuscito a conservare l'impiego, ma mentre gli uomini d'affari liquidavano ogni loro proprietà per trasferirsi in Francia, si era reso conto che i bei giorni della presenza francese in Algeria erano finiti. Aveva aiutato un gruppo dell'OAS a rapinare 30 milioni di franchi dalla banca dove lavorava. La sua complicità con i ladri era stata notata da un vice cassiere che l'aveva denunciato. Così Casson non aveva avuto altra scelta che mandare la moglie e i 2 bambini a Perpignano ed entrare nelle file dell'OAS. Qui era diventata molto preziosa la sua conoscenza personale di migliaia di simpatizzanti dell'organizzazione che ormai vivevano in Francia. Per conoscere questa organizzazione noi siamo partiti da una lettura che vi abbiamo appena proposto, che è tratta da Il giorno dello sciacallo, uno dei classici della spy story scritto da Frederick Forsyth nel 1972, in cui si racconta un tentativo di attentato al presidente De Gaulle organizzato dall'OAS ma affidato a questo killer internazionale che è lo sciacallo. È un libro interessante questo, ancorché si tratti di un romanzo di fiction, perché descrive i profili di questi combattenti dell'organizzazione dell'armata segreta, di questa organizzazione clandestina, e ne fa emergere tanti volti, tanti ritratti. Uno di quelli che forse nel libro emerge meno, ma che noi vi andremo a raccontare in questa puntata del nostro speciale dedicato alla guerra d'Algeria, è quello del legame profondo che ci fu fra l'OAS e il movimento neofascista europeo e le organizzazioni della destra internazionale. Perché, ricordiamo, l'OAS inizialmente si presentava come un'organizzazione apolitica, anche in ragione del fatto che molti degli ufficiali dell'esercito francese che entrarono avevano avuto un passato nella resistenza, nella lotta di liberazione nazionale contro il nazifascismo. Ben presto questa organizzazione si andò a collocare profondamente, in maniera molto chiara, a destra, tanto che alcuni in Francia iniziarono a pensare che più che l'Algeria francese, l'OAS immaginava uno stato caratterizzato dall'apartheid come era la Rhodesia. Per parlare di tutto questo abbiamo deciso di intervistare Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, che nel 2013 ha pubblicato con BFS I Denti del Drago, storia dell'internazionale nera tra mito e realtà. Che cosa è stata l'organizzazione dell'Armée Secrète e qual è stata la sua strategia politica? L'OAS si costituì a Madrid nel gennaio del 1961, i suoi fondatori avevano un progetto, una prospettiva che era quello del mantenimento della presenza coloniale francese e ha avuto un emblema che bisogna ricordare perché ci dice della natura di questa stessa organizzazione, che era la croce celtica, e lo slogan era l'Algérie française. È stata la più importante organizzazione terroristica non solo francese ma credo della stessa Europa occidentale. è stata costituita ed animata non solo da estremisti di destra, neofascisti, integralisti cattolici, ma in modo particolare, soprattutto nelle sue fasi iniziali, da settori oltranzisti dell'esercito francese che, come dicevo, si opponevano all'indipendenza dell'Algeria. L'OAS, l'avevamo detto prima, nasce in Spagna, quindi ha avuto sin da subito, diciamo, una dimensione internazionale a questo punto. E quali sono stati i legami di questa organizzazione con l'universo della destra europea? L'OAS ha visto coagularsi attorno a sé gli interessi e le stesse reti organizzate del neofascismo europeo. Si pensi che proprio nel 1961, a sostegno e a supporto logistico dell'OAS, si costituì una delle più importanti, chiamiamole internazionali nere, che fu Gen-Europe, fondata dall'ex Waffen-SS belga Jean Thiriat, quindi un'organizzazione transnazionale che fece da supporto proprio all'OAS, ma fu il coagulo anche questa organizzazione terroristica. Come si diceva in Francia, e non solo in Francia addirittura nacquero delle organizzazioni proprio con questa finalità, Ordre Nouveau e il Mouvement Occidente. In Italia, perché c'è un aspetto anche molto importante che riguarda l'Italia, vi fu un rapporto molto stretto tra Ordine Nuovo e l'OAS. Si consideri che Clemente Graziani, che era il dirigente quantomeno di pari grado di Pino Rauti, fondatore a sua volta di Ordine Nuovo, fu il responsabile dell'OAS in Italia, e lui stesso pubblicò nel suo libro di memorie una fotografia della sua tessera dell'OAS, la numero 21. Ma in Italia a sostenere questa organizzazione terroristica non furono solo quelli di Ordine Nuovo, ci fu anche un sostegno da parte direttamente del Movimento Sociale Italiano, Giulio Caradonna, che si recò addirittura ad Algeri nel 1961, Pino Romualdi, che era forse la figura più importante in quegli anni del neofascismo italiano, che era un onorevole e fece anche interrogazioni parlamentari a difesa di esponenti dell'OAS che erano stati intercettati in Italia ed espulsi dal nostro paese. Un'ultima figura va ricordata in questo ambito, quella di Guido Gianettini, come dire, uomo dei servizi segreti ma anche di Avanguardia Nazionale. Allora, Saverio Ferrari ci sta parlando dell'influenza che l'OAS ha avuto sul panorama della destra europea, sull'estrema destra europea, un'influenza che è stata anche, mi verrebbe da dire, come una trasmissione di pratiche di lotta politica, diciamo. Nasce il mito del soldato politico in quel contesto, ma nasce anche la modalità con cui l'estrema destra, le organizzazioni neofasciste clandestine, iniziano a costruire la loro battaglia politica, ricorrendo a quelli che erano anche gli strumenti messi in campo dal Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, quindi dai loro avversari. È così? È così, nel senso che è stata proprio la guerra d'Algeria un punto di partenza, non solo di coagulo, per nuove prospettive, addirittura nuovi concetti, nuove teorie che spaziarono dal campo delle gerarchie militari fino all'estrema destra neofascista. E cioè ci fu una riflessione a partire dalle gerarchie militari francesi, ma anche degli stati maggiori in ambito NATO, lo stesso nostro stato maggiore, come dire, si approfondì le ragioni di una sconfitta in quella guerra, perché si domandarono un po' tutti come era stato possibile che delle masse male armate potessero essere, come dire, vincenti rispetto a dei reparti d'élite come furono i parafrancesi, rispetto a un esercito, qual era l'esercito francese, che era sicuramente uno dei più potenti e attrezzati dell'Europa. E la riflessione è stata una riflessione importante che fu trasmessa anche all'estrema destra, cioè il problema della guerra psicologica, il problema del terrorismo, il problema del fatto che il soldato, come dicevi tu, deve essere al tempo stesso un agitatore politico. Ma questa idea di una guerra nuova, che venne chiamata guerra rivoluzionaria anche nei convegni che fecero gli stati maggiori e l'estrema destra, riguardava come dire, la guerra d'Algeria, ma la collocava come fosse questa vicenda semplicemente un tassello in un conflitto più generale nello scontro con il comunismo. E quindi ci furono nuove pratiche, ma soprattutto all'inizio delle nuove teorie, in cui l'idea di fondo che bisognava più che i territori conquistare le anime. Da qui l'idea della guerra psicologica, se vogliamo, da qui l'inizio della strategia della tensione, l'inizio dell'idea che bisognasse condizionare le masse, scioccarle, come in Italia dove vi era il più forte partito comunista dell'Occidente, con un'azione terroristica che spostasse l'opinione pubblica verso richieste di ordine, se non addirittura richieste alle stesse forze armate di sovvertire le istituzioni democratiche repubblicane. Nel ringraziare Saverio Ferrari, noi chiudiamo la nostra puntata e la dedichiamo a Daniel Ferì, apprendista di 15 anni, l'uno delle vittime più giovani del massacro della Metro Charonne, quando l'8 febbraio del 1962 la polizia francese uccise, assieme a Daniel Ferì, altri 8 operai ed operaie che stavano protestando proprio contro l'OAS. Là-bas en Algérie è lo speciale estivo di Walloon a 60 anni dalla guerra in Algeria. Walloon è il programma di storia di Radio Città Fujiko, curato da Debs, Alessia, Olga, Frey e Lara. Potete trovarci su Facebook, Twitter e sul nostro sito walloon.info.